Letture di Radio 24. In Corea le donne stanno diventando sempre più irraggiungibili e così gli uomini hanno iniziato ad importare le mogli dai paesi vicini. Una volta in Corea del Sud erano le donne a sposare gli stranieri, i soldati statunitensi. Nell'ultimo decennio sono gli uomini a cercare moglie nei paesi meno ricchi. È il fenomeno delle spose su ordinazione. I matrimoni misti sono 180.000 all'anno, uno su 10, specie nelle campagne. Una demografia già squilibrata dagli aborti selettivi è stata acuita dal boom economico. Istruite e indipendenti, sempre più coreane sono irraggiungibili. Da qui l'appetibilità di cinesi, vietnamite e cambogiane. Hanno poche pretese e 10 anni in meno, vantaggi su cui fanno leva le agenzie che organizzano spedizioni ad hoc, riunendo decine di ragazze per la scelta del cliente. Se lei accetta, ci si accorda sui dettagli. Le accuse di sfruttamento sono frequenti. Ci sono storie finite con suicidi e abusi, magari dopo l'illusione costruita dalle soap coreane. Seul ha introdotto un corso per futuri mariti, con tanto di patentino. E nonostante il 60% delle spose giudichi l'esperienza positiva, consente di inviare più denaro ai genitori, e l'integrazione sia in crescita, alcune sono state candidate in elezioni locali, in Vietnam e Cambogia le autorità hanno preso provvedimenti, arrestando i broker di diverse agenzie. L'anno scorso Phnom Penh aveva temporaneamente vietato i matrimoni con sudcoreani e ora ha fissato nuove norme per impedire il ratto delle cambogiane agli stranieri oltre i 50 anni o con redditi sotto i 2.500 dollari mensili. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alessandro Ursic, Viva le straniere, dal numero 30 del mensile Il, Intelligence in Lifestyle. Letture di Radio 24. Cosa c'entra il latino con social network, blog e siti internet? Apparentemente sono due mondi distanti anni luce e inconciliabili tra di loro. Eppure, per la rete, qualcuno dialoga nell'idioma dei Cesari. Sarà per virtuosismo linguistico, sarà per nostalgia o per allenamento accademico, o per disprezzo delle lingue odierne, in specie dell'inglese. Sta di fatto che sono in molti sui social network e sui blog di tutto il mondo a dialogare in latino. Non mancano ovviamente dialoghi in latino comico, maccheronico. È curioso e interessante che questo fenomeno inattuale stia crescendo proprio su internet, luogo per eccellenza delle moderne forme di scrittura sintetica, automatica e gergale. Questo rigurgito di neolatinità è fenomeno mondiale ed è causato dalla possibilità che latinisti, studiosi dell'antica Roma, teologi di ogni dove, hanno di condividere in uno spazio pubblico, sia pure virtuale, le proprie passioni e i propri interessi. In altri tempi sarebbe stato difficile che un latinista olandese potesse sbizzarrirsi a dialogare in tempo reale con un latinista brasiliano. Oggi invece questo miracolo è possibile grazie ad internet, dove tutte le minoranze riescono a ritrovarsi e dove ogni inattualità trova una sua piccola centralità, un suo ricompattamento comunitario. Il latino è una logica e lucida lingua morta che continua a essere studiata e finanche parlata in tutto il mondo e per varie ragioni. Perché è stata per molti secoli lingua dominante durante l'Impero Romano, divenendo base di tante lingue nazionali. Perché la storia e la letteratura latina sono studiate dappertutto, soprattutto nei paesi a vocazione imperiale. Perché parte della teologia cristiana si è espressa e si esprime in latino. E infine, perché c'è sempre, nell'uomo moderno, un demone che lo spinge a ritroso verso lingue in disuso. L'impero romano, per esempio, continua ad affascinare milioni di persone in tutto il mondo e l'unico modo che si ha di ripercorrerlo, sia pure un po' fantasiosamente, è conoscendone la lingua, che conoscere la lingua di un popolo significa conoscerne il carattere e l'indole. Da questo punto di vista, la lingua latina vince per esattezza, sapienza, sinteticità e concretezza, caratteri dominanti degli antichi romani. Due uomini che parlano in latino nel 2011 hanno però qualcosa di incongruo, di involontariamente comico. Ci si chiede sempre, mentre li si ascolta o li si legge, come sia possibile dire in una lingua morta un pensiero vivo, un sentimento che è cresciuto, nella coscienza, con altre parole. Una cosa è saper leggere le fonti latine, che è una sapienza molto importante e per varie ragioni. Altra cosa è portare quelle parole nell'oggi. L'effetto è sempre maccheronico, anche quando è espresso con correttezza grammaticale. Il latino attualizzato funziona a una condizione, ovvero che abbia in sé un elemento esplicito di postmodernità. Citazionismo, deriva maccheronica, rifacimento, fascinazione artistica del puro suono. Sono stati tanti gli scrittori italiani che nell'ultimo secolo hanno maneggiato o rimaneggiato il latino, magari deformandolo o innestandolo nell'italiano d'uso. Gadda, Testori, Zanzotto, Valduga, Bandini, Lomunno, tanto per fare dei nomi. Ma se quest'aura postmoderna viene a mancare, l'effetto che si crea è solennemente buffo, una voluttuosa abbuffata di realtà linguistica. Non sappiamo cosa spinga migliaia di persone a dialogare in latino su Facebook o sui social network. Li si legge con piacere, a dire il vero, ma il loro essere vivi in una lingua morta li carica di nostalgia e di lontananza e li trasforma in personaggi teatrali divorati dalla solitudine. Meglio tenersela per sé, la sapienza latina. Meglio tradurre a bassa voce o in silenzio le parole perdute di una grande storia e di una grande letteratura. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Il latino al tempo di Facebook di Andrea Di Consoli dal Messaggero di domenica 22 maggio. Per poter giudicare la validità di scuole pubbliche e private, il governo australiano mette online i voti degli studenti, ma non tutti sono d'accordo. È la radiografia impietosa di un intero sistema scolastico. Attraverso il sito MySchool, il governo federale australiano ha reso accessibili al pubblico i dati relativi a oltre 9.500 scuole, pubbliche e private. Per ciascuna è possibile conoscere i risultati raggiunti dai ragazzi nei test annualmente condotti in letteratura, scrittura e calcolo. Non solo, ma anche i dati socio-economici e di composizione etnodemografica di ogni istituto, oltre al contributo finanziario, sia pubblico che sotto forma diretta pagata dai genitori, mediamente ricevuto per alunno. L'iniziativa ha stimolato paragoni fra scuola pubblica e privata e spinto a comparare i vari costi per alunno in rapporto alla performance fornita nei test. In quella che è sembrata un'insolita alleanza, i due poli assai lontani all'interno del mondo scolastico hanno espresso forti riserve sull'iniziativa di MySchool. I sindacati degli insegnanti e gli istituti privati, per alcuni dei quali è risultato che le altre rette non necessariamente garantiscono risultati migliori rispetto a scuole con finanziamenti minori, hanno, pur con prospettive diverse, sottolineato che non si può giudicare una scuola solo dai risultati di un test condotto sugli studenti. Per quanto parziale, la trasparenza imposta da MySchool sembra invece essere stata accolta con favore dai genitori. I dati riportati sul sito, infatti, vengono spesso richiamati nel bene e nel male durante gli incontri che in Australia avvengono regolarmente fra corpo insegnante, preside e comitati dei genitori. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Stefano Gulmanelli, Scuola ai raggi X, dal numero 30 del mensile Il, Intelligence in Lifestyle.